è rovinata da troppi padroni. Popolazione pilotata come droni. Renzi uguale a Berlusconi. I vecchi si camuffano da nuovi. Dalla poltrona non li smuovi. Il sarto personale fa le leggi su misura. Stato canaglia con le tasse è uguale all'usura. Tutto paese uguale, vai avanti se ti fai raccomandare. Con le tue forze non hai dove andare. Dopo una vita non si ha il posto sicuro. Disoccupato ancora perché non conosco nessuno. Un diploma e qualche attestato appeso al muro. In tempo di crisi mi ci posso asciugare il culo. Ho studiato a scuola quello che mi hanno imposto, ma la cultura l'ho appresa in un altro posto. Dopo la scuola ho cercato lavoro e più non posso. Effo allora che l'ha presa in un altro posto. Brucio un poco, stringo i denti. Un giorno gireranno i venti, allora saranno altri tempi. Io non so come farò, avanti non posso andare se non vengo raccomandato. Sarà sempre più difficile scavalcare il figlio dell'avvocato. Io lavoro non troverò, preferiscono chi ha il parente più potente. Io le mani mi spaccherò, ma sorriderò per sempre, non me ne frega niente. Mamma mi diceva, studia perché non fai strada. Entra a casa, passi tutto il tempo fuori buttato per strada. Ho studiato ma strada non ho fatto. L'unica strada che mi è rimasta è quella con l'asfalto. Posti statali rari come un albino, riservati a raccomandati anche il posto di Netturbino. Spedisco il mio curriculum come le letterine. È più letto lui che il giornale L'Avvenire. Molti coglioni fanno successo solo perché hanno i dobloni o perché leccano il culo ai loro datori. Io resto vero e conservo la mia dignità. Meglio di chi per far carriera vende la virginità. In mezzo ad una strada ci siamo solo non esti. I farabutti lavorano tutti, vogliono pure il rispetto. Cosa mi aspetto dalla vita? Io neanche lo so. Questo paese speranza non dà, credo che emigrerò. Io me ne fotto delle parole, anche se dentro brucio di rabbia, ma lascio che siano parole al vento. Io non so come farò, avanti non posso andare se non vengo raccomandato. Sarà sempre più difficile scavalcare figlio dell'avvocato. Io lavoro non troverò, preferiscono chi ha il parente più potente. Io le mani mi spaccherò, ma sorriderò per sempre, non me ne frega niente. Quindi suo padre è un operaio? Sì, non possiamo più passare il pezzo in radio, mi dispiace.